l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavare, buonasera da Rock Wave, trasmissione del mercoledì. Questa volta una trasmissione decisamente straordinaria. Perché? Perché io ho voluto fortissimamente questa sera parlare degli anni 60 e soprattutto parlare degli anni 60 padovani. Abbiamo tre gruppi storici di quell'epoca, abbiamo i Delfini, abbiamo i Ragazzi dei Capelli Verdi e abbiamo i Roila, chiaramente i protagonisti di quell'epoca. Li presentiamo, uno dei vecchi esponenti dei Roila, vai Lele. Bene ragazzi, ciao ciao, buonanotte a tutti. Uno dei Delfini, vai Franco. Ciao, saluti a tutti, statemi bene. E Franco dei Ragazzi dei Capelli Verdi, ti avvicini al microfono. Ah sì, ciao a tutti, buonasera, adesso ci divertiamo. Benissimo, ecco, le atmosfere degli anni 60. È una, la prima domanda che vi posso fare è questa. Cosa si respirava negli anni 60 a Padova? Che movimento c'era? Chi vuole rispondermi? Franco vuoi rispondere? Ma c'erano centinaia Franco di gruppi, dei Delfini, diciamo. C'erano centinaia di gruppi che suonavano. Già prima dell'avvento dei Beatles, sulla scia di gruppi tipo i Champs, quelli che facevano tequila per incendersi, certo. Oppure sulla scia di gruppi come gli Shadows, quelli di Apache. Quindi c'erano molti gruppi che suonavano, specialmente strumentali. Come quindi mai anche, secondo te? C'è una è cominciato un po' con dai rock Beatles, and roll, o prima ancora dai è cominciato Beatles. Prima è cominciato con rock and roll, in antitesi alla musica vecchia che c'era prima del rock and roll, diciamo. E c'erano là i primi gruppi che cominciavano a suonare nei patronati, le cantine e cose del genere. Questo prima dei Beatles. Poi con i Beatles il discorso è aumentato, sono nati centinaia e centinaia di gruppi. Sì, Padova veniva chiamata la Liverpool italiana assieme a Mestre. Appunto per questo, è stata una città guida, diciamo, nella musica Beatles. Ecco, visto che sei dai dei Delfini, fai una piccola scheda della tua band, all'epoca chiaramente. Dunque, i Delfini nascono nel 1961. Con repertorio Champs, Duane Eddy, che era un chitarrista che andava di moda, un grande chitarrista, sì. Il musicista strumentista che ha venduto più dischi in assoluto nel mondo. Esattamente. Più di Louis Armstrong, più di chiunque altro. Benissimo, c'è una contrapposizione tra voi e i Ragazzi dei Capelli Verdi. Adesso Franco viene al microfono perché dicevano che i Ragazzi dei Capelli Verdi erano un po' rollstoniani, mentre voi erano un po' beatlesiani. A me, ma anche non direi nel modo che del vestire. Beatlesiani, eravamo più rock and roll forse. Adesso Franco ne dice qualcosa anche lui dei Ragazzi dei Capelli Verdi. Vai al microfono Franco, vai avvicinati a quello. Ma io sono ancora oggi, mi sto chiedendo di questa rivalità che invece proprio che non è mai esistita, giustamente. Ma evidentemente come avvicinati, tutte le belle storie. Sì, una volta in Inghilterra sono i Beatles e i Rolling Stone, volutamente per il mercato, volutamente per i giornalisti, volutamente per altre cose. E a Padova c'erano i Ragazzi di Capelli Verdi e i Delfini. C'è qualcosa che ricorda anche la nostra storia, Delfini e Ragazzi di Capelli Verdi, perché se ben ricorda Wanna Be Your Man è un brano che i Beatles hanno composto, certo, per i Rolling Stone. Sì, cioè, hanno donato i Rolling Stone. Sì. Già qui si può capire che non c'era, quindi il dualismo non esisteva. E cosa si può dire? Che i Delfini fu proprio Franco Capovilla a presentarsi al discografico, alla loro casa discografica, e poi noi naturalmente siamo diventati i Capelli Verdi. Grazie, capelli. Si capisce che non c'era sicuramente una rivalità, non esisteva il dualismo. No. Adesso parliamo di Royals. Royals è nato come un gruppo strumentale, poi hanno acquisito un cantante melodico, Silvano. Diciamo verso il 65-66 così, il chitarrista di questo gruppo melodico, di questo gruppo molto all'italiana, è partito per la leva. E allora cercavano un sostituto e questo sostituto sono stato Sei io. Sei stato te. E naturalmente io, affascinato già da Elvis Presley, da tutta questa musica, e poi abbagliato dai Beatles, ho cominciato a portare il beat dentro questo gruppo e il gruppo è cambiato completamente. Ci proponiamo subito, quindi suoniamo qualcosa all'inizio? Cosa dite? Allora, c'è un gruppo che vi sorregge. C'è un gruppo particolarmente affiatato, amicissimi, i Beat Shop, vocalità incredibili, simpatia eccezionale e bravi musicisti soprattutto. Quello sì, che bravi musicisti. Cominciamo con qualcosa dei Beatles allora. Siete pronti?